Italia in controluce. Buongiorno a tutti, oggi è il 26 settembre, penultima puntata di Italia in controluce. Lo ricordo appunto, da domani l'ultima puntata di questo programma. Naturalmente ci sentiremo dalla prossima all'interno del nuovo spazio dalle 13 alle 14, che di fatto è e sarà un grande contenitore di informazione, con alcune delle pillole e di reportage di cronaca lunedì e il venerdì. Oggi parliamo delle dimissioni dei parlamentari del PDL, perché ieri i parlamentari del PDL hanno votato per le dimissioni. La decisione è arrivata per acclamazione alla riunione dei deputati e dei senatori. In sostanza dicono: se il 4 ottobre il Senato vota la decadenza del loro leader Silvio Berlusconi, tutti si dimettono e chiederanno il ritorno al voto. In questo momento ha parlato Giorgio Napolitano, che è molto preoccupato, ha detto molte cose importanti ieri, anche in risposta a quello che troviamo sulle pagine dei principali giornali, l'esternazione dell'ex premier Silvio Berlusconi, che solo ieri era tornato nuovamente all'attacco di magistrati e di opposizione. Non dormo da 55 giorni, aveva detto: i peggiori della mia vita vogliono estromettermi dalla storia con accuse ingiuste ed infamanti. Prima il presidente Napolitano aveva fatto filtrare che il Quirinale verificherà con esattezza l'esito delle decisioni dell'assemblea dei parlamentari di ieri. Poi in questi minuti, in questi secondi, diciamo, Napolitano ha esternato, ha detto una serie di cose che molto importanti per quanto riguarda il futuro del governo. Vi chiediamo dunque, questi sono i vostri sms, 349-238-6666, vi chiediamo se hanno fatto bene i parlamentari del PDL a rassegnare le dimissioni nelle mani di Berlusconi, e se diciamo siete convinti e siete d'accordo con questa accelerazione da parte del PDL. Subito la linea a Betta Fiorito per capire che cosa ha detto in questi minuti Giorgio Napolitano. Beh, intanto Daniele, si prefigura un muro contro muro, perché quello che era definito la mossa del PDL di ieri sera, queste annunciate dimissioni in massa qualora Berlusconi dovesse decadere, dovesse quindi essere votata la sua decadenza al Senato, e praticamente era stato visto anche come un pressing sul Colle, sul Quirinale. E a questo punto Napolitano non ci ha messo molto a mandare una nota in cui dice che è un dato costitutivo di qualsiasi Stato di diritto in Europa la non interferenza del Capo dello Stato, del Primo Ministro, in decisioni indipendenti dell'autorità giudiziaria. Insomma, ribadisce la divisione dei poteri che è propria delle democrazie, e anche stigmatizza l'evocazione di colpo di Stato per la vicenda giudiziaria di Silvio Berlusconi. Non occorre, dice il Capo dello Stato, neppure rilevare la gravità e assurdità dell'evocare un colpo di Stato, un'operazione eversiva in atto contro il leader del PDL. E poi cerca anche di trovare una soluzione, dice: c'è ancora tempo, mi auguro che se ne faccia buon uso per trovare il modo di esprimere, se questa è la volontà dei parlamentari del PDL, la loro vicinanza politica e umana al presidente del PDL, ovvero Berlusconi, senza mettere in causa il pieno svolgimento delle funzioni dei due rami del Parlamento. Dobbiamo anche aggiungere, Daniele, che due ministri del PDL, Lupi e Quagliariello, sono alquanto tiepidi su queste dimissioni, quindi vediamo che cosa succederà il famoso 4 ottobre, quando ci dovrebbe essere il voto al Senato. Daniele. Bene, naturalmente poi ci risentiamo con te nel giornale radio delle 14 per altre notizie che riguardano Napolitano, le ultime esternazioni. Vi abbiamo chiesto se hanno fatto bene i parlamentari del PDL a rassegnare le dimissioni nelle mani di Berlusconi. Come Pierluigi dice che l'Italia è tenuta sotto ricatto da un plurinquisito e da un pluripregiudicato. Chi inneggia a Napolitano, come Giuliano da Roma, chi come Sergio da Brescia parla di un bluff, dice che le poltrone alla fine non saranno mai mollate dai deputati del PDL. Città di Castello, Andrea Valori dice che fanno bene perché secondo lui è una mossa come minimo suicida. Il nonno napoletano dopo 60 anni di Parlamento, chi come Cristina Grimaldi dice che questo fa capire quanto interessa a Berlusconi il benessere e la serenità del popolo italiano. Chi come Eros da Treviso dice che per rispetto agli elettori chi si licenzia non può più farsi rieleggere. Nella nostra Costituzione ci sono tutti i mezzi per protestare. L'Italia, ci sono tantissimi sms che arrivano al 349-238-6666. Chi come Antonio da Campo San Piero dice che li ha nominati lui, cioè lui inteso come il Presidente della Repubblica Napolitana, i parlamentari del PDL nelle cosiddette liste bloccate. Che cosa pensate che facessero? È lui che comanda, Antonio da Campo San Piero. Possibile che gli elettori del PDL, vediamo dov'è, no, il singolo è sempre sacrificabile e se lo fanno Berlusconi sarà ricordato sempre come demone, non come vittima. Continuate naturalmente a mandarvi, vediamo anche le ultime notizie. Intanto le agenzie continuano a ripetere che l'annuncio delle dimissioni del parlamentare del PDL non deve essere una forma di pressione sul colle per anticipare lo scioglimento delle Camere. In questa lunga nota, cui tutte le agenzie sono piene, Napolitano dice che non può definire inquietante l'annuncio di dimissioni in massa dal Parlamento, ovvero di dimissioni individuali, le sole presentabili di tutti gli eletti del PDL. Si confonderebbe infatti l'intento, scrive il Quirinale, o produrrebbe l'effetto di colpire alla radice la funzionalità delle Camere, ha sottolineato il Capo dello Stato poco fa. Non meno inquietante sarebbe anche il proposito di compiere tale gesto al fine di esercitare un'estrema pressione sul Capo dello Stato per il più ravvicinato scioglimento delle Camere. Vediamo quanti sono gli SMS. Hanno fatto benissimo, scrive un ascoltatore. Altri ancora pongono soprattutto al centro il ruolo di Giorgio Napolitano, quale è stato l'artefice, secondo molti nostri ascoltatori, del governo, cosiddetto governo, dalle larghe intese. Ennesima dimostrazione di come Berlusconi menta, scrive un ascoltatore, e come la classe politica sia completamente priva di qualsiasi etica e cultura dell'onore e della responsabilità. Insomma, sono molti gli sms, ci ritroviamo domani alla stessa ora, sempre sulle stesse frequenze di Radio 24 con Italia in Controluce.